perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Abbiamo impedito un'operazione contro natura. Queste le parole del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, sulle unioni civili. Questa sera il voto sul provvedimento, mentre resta alta la discussione sull'obbligo di fedeltà, come avete sentito anche dalla trasmissione di Gianluca Nicoletti. La Grecia sui migranti: non diventeremo un magazzino di anime. Le iniziative unilaterali sono pericolose, dice il ministro degli esteri Gentiloni. I vertici della Lombardia informati delle intercettazioni nelle inchieste sulla sanità. L'ipotesi spunta dalle carte dell'indagine che ha portato all'arresto del braccio destro di Maroni. Lo scontro sull'area ex Expo. Nel mondo della ricerca, la senatrice Cattaneo attacca: è uno spot che svilisce la ricerca. Le due squadre di Milano verso la cessione. Berlusconi se dice: se fallisce la trattativa con B siamo pronti ad altri acquirenti. L'Inter smentisce che Toir voglia vendere. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti: effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, il 349-238-6666, tanto per i vostri sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque torniamo a parlare di unioni civili, perché a far discutere oggi sono le dichiarazioni molto dure del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, rilasciate tra l'altro a margine dell'incontro tra i ministri degli interni proprio sul tema dell'immigrazione. Dunque partiamo proprio da qua, dalle unioni civili. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Eh sì, Simone, buongiorno. Fanno discutere le parole del ministro dell'Interno, parole che andremo a sentire a breve. Come fa discutere nel Partito Democratico ed è notizia della tarda mattinata la scelta palese dei verdiniani di votare questa sera la fiducia al testo sulle unioni civili, una maggioranza che di fatto si allarga a Palazzo Madama. È la prima volta infatti che Alleanza Popolare per le Autonomie vota la fiducia. Il testo Cirinna, per quanto emendato nelle adozioni e nell'obbligo di fedeltà, si avvia ad uscire allora dal Senato con il sì della coalizione di governo più ala e non con quello della maggioranza trasversale PD, 5 Stelle e Sinistra Italiana, ipotizzato fino a 10 giorni fa. Vincitore della partita, secondo molti, è Angelino Alfano. Abbiamo fermato un'operazione contro natura, dice Alfano. Sentiamo allora queste parole. Ha vinto il buon senso, perché è assolutamente di buon senso dare più diritto ai soggetti anche dello stesso sesso che compongono una coppia, una unione. Al tempo stesso l'istituto giuridico del matrimonio è ben distinto da quello dell'unione ed è stato un bel regalo all'Italia avere impedito che due persone dello stesso sesso, cui lo impedisce la natura, avessero la possibilità di avere un figlio. Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica che credo sia stato un nostro risultato aver impedito. Contro natura e oscurantismo, commenta dalla minoranza PD Speranza. Di fallimento dell'Italia parla intanto il Movimento 5 Stelle. Con la fiducia siamo ad una deriva aberrante, dice Brunetta, Forza Italia. La prima chiama sul voto inizierà, Simone, alle 19. Il testo, è bene ricordarlo, passerà poi in seconda lettura alla Camera. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Il ministro dell'Interno, si diceva, ha parlato a margine del vertice sull'immigrazione, al centro del quale resta evidentemente la questione di Schengen. E ci sono le parole molto dure che arrivano in questo caso dalla Grecia. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Trovare un approccio condiviso sul rafforzamento dei controlli, questo è l'obiettivo del Consiglio dei Ministri degli Interni Europei riuniti da questa mattina a Bruxelles, ma la via è stretta, soprattutto dopo la sfida lanciata dall'Austria e dagli altri paesi balcanici che continuano la loro offensiva per frenare l'afflusso di migranti introducendo quote, inasprendo le condizioni di passaggio, di fatto creando un tappo in Grecia dove rischiano di rimanere bloccati migliaia di migranti, tutti i paesi che ieri, lo ricordiamo, hanno partecipato al cosiddetto controvertice di Vienna, dal quale sono state praticamente escluse le istituzioni europee e la Grecia. E non mancano gli appelli all'unità e alla responsabilità, come quello lanciato dal commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos poco prima del vertice. Critical moment, critical meeting. We have made common decisions. È un momento critico, un incontro critico, ammette il commissario, ricordando che questo è il momento della responsabilità, avvertendo che iniziative unilaterali non portano da nessuna parte. Di responsabilità parla anche il ministro dell'interno francese Cazeneuve, che invita ad applicare rigorosamente le decisioni europee. I muri generano solo illusioni, dice il ministro dell'interno italiano Alfano, fortemente irritata alla Grecia. Non accetteremo di vedere il nostro paese trasformato in un magazzino di anni, anche se questo comporta un aumento di fondi, avverte il viceministro per l'immigrazione Musalas al suo arrivo. Queste dunque le premesse, le conclusioni nel primo pomeriggio, quando è prevista anche una conferenza stampa. Te, Simone. Grazie ad Alessandra Schepisi, anche a te per questo aggiornamento. Ieri il Presidente del Consiglio ha presentato il progetto per il dopo Expo, la grande area di ricerca dedicata alla farmaceutica a Milano, mentre Genova resterà un polo dedicato alla robotica. Il finanziamento è da 1,5 miliardi, ma c'è chi da una posizione autorevole contesta alcune scelte. Lo fa la senatrice a vita Elena Cattaneo, contestando appunto la scelta di rendere l'Istituto Italiano di Tecnologia il centro di erogazione di tutto questo. E l'Istituto Italiano di Tecnologia risponde. Sentiamo. Botta e risposta sulla ricerca. Il polo della scienza nell'ex area Expo è solo uno spot che svilisce la ricerca. Così la senatrice a vita Elena Cattaneo oggi su Repubblica. Secondo la scienziata è sbagliato assegnare 1,5 miliardi di fondi pubblici a una fondazione privata senza bando, quando per migliaia di studiosi si dice che non ci sono fondi. Così, dice Cattaneo, si crea una nuova corte dei miracoli presso la quale c'è già chi si è messo a tavola. Il riferimento è a Human Technopole Italia 2040, il progetto di polo scientifico presentato ieri a Milano dal premier Matteo Renzi e dal direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova Roberto Cingolani, che condivide l'urgenza dei finanziamenti per la ricerca e i ricercatori tutti, ma replica punto per punto a questi rilievi. Questa non è una cosa che si può fare bottom up, in nessun posto al mondo si fa bottom up. Le grandi infrastrutture sono decise dallo Stato e poi lo Stato chiede a suoi pezzi. Le università di Milano, l'IT sono pezzi dello Stato, perché contrariamente a quello che asserisce la senatrice Cattaneo, noi siamo 100% pubblici. Il fatto di essere una fondazione di diritto privato è una questione di organizzazione, non vuol dire che siamo privati, assolutamente. Un documento di visione. Io quello che non riesco bene a capire è quale sia fondamentalmente il pericolo per la ricerca. La soluzione a questi nodi sarà la riforma complessiva del sistema della ricerca, già all'orizzonte, secondo il fisico italiano e premio Nobel Carlo Rubbia. Lascerei da parte la questione Cingolani come un footnote della situazione. Secondo me il grosso problema è di aspettare adesso dal ministra, più da Renzi, una revisione sostanziale di quelli che sono i programmi di ricerca dell'Italia nel suo insieme. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il caso di Giulio Regeni continua ad alimentare tensioni tra l'Italia e l'Egitto. Non sta in piedi l'ultima versione fornita dal Cairo per la morte di Giulio Regeni, scomparso esattamente un mese fa. Secondo il governo egiziano, il ragazzo sarebbe stato vittima di una vendetta per motivi personali legata agli ambienti e dello spaccio della droga. E tuttavia l'autopsia effettuata in Italia conferma che il giovane non faceva uso di stupefacenti. Questa è almeno la quinta verità avvalorata dal Cairo dopo quella dell'incidente stradale, dell'omicidio a sfondo omosessuale, l'atto criminale e dell'uccisione per mano di spie dei fratelli musulmani. Le parole del ministro dell'interno Magdi Abdel Garaf hanno fatto infuriare il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che ieri ha colto l'occasione del question time alla Camera per replicare. Voglio essere chiaro ancora una volta, noi non ci accontenteremo di verità di comodo. Oggi alle 14 si terrà a Roma un sit-in pacifico organizzato dagli attivisti di Amnesty International, dell'associazione Antigone e dei familiari e amici di Regeni, che non si arrendono. Ancora oggi gli uomini del ROS e dello SCO non hanno ottenuto dal Cairo nulla di quanto chiesto con una rogatoria ufficiale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un altro caso che fronte di tensione internazionale è il caso WikiLeaks, con le intercettazioni della NSA, la National Security Agency americana, ai danni di Silvio Berlusconi e dei suoi stretti consiglieri nel periodo più intenso della crisi del 2011, quella che portò poi, come ricorderete, alla dimissione dell'allora premier e all'insediamento di Mario Monti. È un fatto inaccettabile, così lo ha definito il ministro Boschi ieri in Parlamento. Nella notte Obama ha firmato una legge proprio per la tutela della privacy dei cittadini di paesi alleati. La protezione della privacy sarà valida per i cittadini americani e sarà estesa anche ai cittadini stranieri di paesi alleati. La lista dei paesi alleati non è specificata, ma la legge firmata dal presidente Obama dice che si potrà fare causa al governo degli Stati Uniti se i propri dati saranno svelati in modo illegale. La legge, che ha ottenuto il sostegno trasversale al Congresso, cerca di ricostruire la fiducia con gli alleati europei dopo lo scandalo del Datagate, i controlli di massa della National Security Agency denunciati da Snowden. Uno scandalo che ha ancora strascichi, come dimostra l'ultimo caso diplomatico tra Italia e Stati Uniti in merito alle intercettazioni ai danni di Berlusconi quando era capo del governo nel 2011, poco prima delle dimissioni. Una legge chiave per tutelare i dati dei consumatori, ha detto Obama. Nello stesso momento però è ancora in corso il braccio di ferro tra la Apple e il governo americano per la decriptazione di un iPhone appartenuto a uno degli autori della strage di San Bernardino. Sarebbe un male per la America America, ha fatto sapere l'amministratore delegato di Cupertino, Tim Cook. Secondo il New York Times, la società starebbe lavorando a nuove misure di sicurezza che renderanno del tutto impossibile accedere a un iPhone bloccato. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il canone, in particolare questo nuovo modo di riscossione del canone RAI, ci impone maggiori responsabilità. È una delle cose che dice la presidente della RAI, Monica Maggioni, che è stata intervistata questa mattina da Giovanni Minoli in Mix 24. Sentiamo. È la garanzia che dietro la RAI c'è un sistema che fa sì che la RAI non stia facendo gli interessi di nessuno nello specifico. Ogni polemica che ogni mattina scoppia sulla RAI è la garanzia del servizio pubblico. Io non potrei fare polemica su un privato che decidesse di andare in una direzione vero, precisa. Questo è vero, però il canone però non basta. Il canone per avere che cosa in più in cambio? Per avere la possibilità di un immaginario di questo paese non governato da nessun altro, per dare la possibilità di capire, di comprendere di più, di fare i discorsi che facevamo noi sì. fino a un minuto fa, senza che questo serva a un padrone preciso, a un editore preciso, a una persona precisa. Così dunque Monica Maggioni, presidente della RAI. Se volete riascoltare l'intervista completa, ovviamente è in podcast nella trasmissione di Giovanni Minoli, Mix 24. Noi passiamo alla cronaca giudiziaria, che però in questo caso si intreccia con la politica, e torniamo alla vicenda dell'inchiesta milanese sulla sanità, perché emergono una serie di dettagli. Da una parte l'idea già era circolata che una parte dei finanziamenti sia andata anche in Veneto, e per essere precisi all'ex leghista e sindaco di Verona Flavio Tosi, che tra poco sarà nostro ospite proprio per rispondere alle domande su questo. Dall'altra, in maniera più inquietante, dalle carte spunterebbe la convinzione che gli stessi vertici della regione fossero informati delle indagini e delle intercettazioni durante le indagini stesse. Cerchiamo di fare un punto con la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Dell'ipotesi di finanziamenti neri in nero arrivati anche alla fondazione che fa capo a Flavio Tosi ne avevamo parlato giorni fa, anche proprio in effetto giorno, è uno degli elementi che è venuto fuori da quasi subito, diciamo, su questo fronte investigativo. Quest'altro aspetto a cui tu facevi riferimento invece è un aspetto che dagli allegati dell'ordinanza che ha portato in carcere appunto Fabio Rizzi, l'ex factotum del governatore Roberto Maroni, insieme appunto ai suoi collaboratori e insieme a quella che viene definita la zarina della psichiatria lombarda. Ebbene, da annotazioni dei carabinieri emergerebbe la convinzione degli inquirenti che il governatore Roberto Maroni abbia ricevuto in anticipo le intercettazioni appunto riguardanti Roberto Fabio Rizzi, e una convinzione che si sono fatti sulla base di intercettazioni proprio degli indagati, a cominciare da quello di Mario Longo, ex appunto collaboratore di Rizzi, che dice: se i servizi ci hanno dato qualcosa è perché la magistratura gli ha detto di darcelo. Cioè, secondo i carabinieri, Longo ha i dettagli e le trascrizioni, questo è possibile leggere in un loro rapporto, delle intercettazioni con largo anticipo, ma aggiungono anche gli investigatori che una visione a 360 gradi invece l'avrebbero avuta appunto direttamente, l'avrebbe avuta direttamente il presidente della Lombardia Maroni. Quindi si tratterebbe, secondo questa ipotesi investigativa, diciamo così, di un rapporto servizi segreti che avrebbero fatto avere in anticipo queste intercettazioni. Non si capisce ancora bene con quale finalità, ma questa appunto è un'ipotesi indicata in un rapporto degli investigatori. Simone. Grazie Raffaella Calandra, grazie Raffaella per questo aggiornamento, come si diceva, di questa vicenda appunto dell'inchiesta sulla sanità milanese. Torneremo a parlare tra un attimo e lo faremo appunto col sindaco di Verona Flavio Tosi. Veniamo a una vicenda invece che torna e ritorna, quella della durata delle concessioni per gli stabilimenti balneari, perché come ormai saprete c'è stata un'estensione, a lungo ne abbiamo parlato. Ebbene, l'Europa si preparerebbe a intervenire per via giudiziaria, per così dire. Sentiamo. Le autorizzazioni devono essere concesse secondo una selezione imparziale e trasparente per una durata limitata e non possono essere oggetto di una proroga automatica. Così l'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea ha bocciato la proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020, decisa dal governo italiano. Il parere non è definitivo, manca il pronunciamento dei magistrati di Lussemburgo, che però raramente contraddicono il loro avvocato. Per il diritto europeo, gli stabilimenti balneari sono servizi su suolo pubblico e in quanto tali digitali devono essere aperti alla libera concorrenza, come stabilito dalla direttiva Bolkestein risalente al 2006 e entrata in vigore in Italia nel 2010. Il caso è arrivato a Lussemburgo dopo che alcune aree dei magnali marittimi in Sardegna e la Promo Impresa operante sul lago di Garda avevano aperto contenziosi davanti ai TAR regionali, i quali hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte UE, chiedendo di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario e soprattutto con i principi di protezione della concorrenza ed eguaglianza e trattamento tra operatori economici. Ora i balneari italiani e le oltre 30.000 imprese attive nel settore tremano. A loro avviso, una gara pubblica aperta ai paesi europei significherebbe la fine del Made in Italy, con le nostre spiagge che finirebbero nelle mani delle multinazionali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grandi movimenti in casa delle squadre di calcio milanesi che presto potrebbero cambiare proprietà. Oggi Toir smentisce le indiscrezioni, ma nell'aria sembra restare l'idea di una cessione dell'Inter. Berlusconi invece sarebbe pronto a cercare, e anzi avrebbe sotto mano già dei nuovi acquirenti nel caso fallisse la trattativa con Mr. B. Sentiamo. Acque agitate nel calcio milanese. La voce più clamorosa, anche se l'Inter si è affrettata a smentirla con un comunicato, riguarda il presidente Toir. Il magnate indonesiano, proprietario del 70% della società milanese, sarebbe intenzionato a vendere il club. Il motivo? I debiti consolidati, circa 410 milioni, che in assenza di risultati sportivi pesano. Per rilevare l'Inter servono 110 milioni per Toir e 300 in garanzie bancarie. La tentazione di vendere è forte perché, a parte i conti, i tifosi sono scontenti anche del nuovo corso di Mancini. Al momento comunque Toir avrebbe dato mandato a Goldman Sachs sia per cercare nuovi partner sia per trovare un acquirente interessato a rilevare la sua quota, con un occhio particolare alla Cina. Se l'Inter piange, il Milan non ride. In coincidenza col 30° anniversario della sua presidenza, Silvio Berlusconi fa sapere che nel caso fallisse la trattativa con Mr. B, vi sarebbero alla porta altri acquirenti. Una dichiarazione, quella di Berlusconi, più inquietante che rassicurante. Ormai quella della vendita del Milan sembra una fiction di Canale 5, una storia infinita con ascolti sempre più bassi. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Flavio Tosi, sindaco di Verona, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi, grazie. Allora, oggi il quotidiano La Repubblica titola «Giallo sui 100.000 euro in nero a Tosi». Il riferimento è all'inchiesta sulla sanità milanese che ha portato uno sconvolgimento nella regione Lombardia. Vogliamo farle un paio di domande su questo, ma lo facciamo dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, parla Alfano sulle unioni civili, abbiamo impedito un'operazione contro natura. Questa sera il voto sul provvedimento, mentre resta alta la discussione sull'obbligo di fedeltà. Tra l'altro su questo è stato presentato proprio un DDL, parleremo con la senatrice che l'ha presentato tra un attimo. La Grecia sui migranti, non diventeremo un magazzino di anime, le iniziative unilaterali sono pericolose, dice il ministro degli esteri Gentiloni. È in corso un vertice tra i ministri degli interni su questo. I vertici della Lombardia informati delle intercettazioni nelle inchieste sulla sanità. L'ipotesi spunta dalle carte dell'indagine che ha portato all'arresto del braccio destro di Maroni. Lo scontro sull'area ex Expo nel mondo della ricerca, la senatrice Cattaneo attacca, è uno spot che svilisce la ricerca stessa. E dunque Flavio Tosi, sindaco di Verona, appunto, qua nelle indiscrezioni che vengono pubblicate dai giornali, scavando un po' tra le carte di questa inchiesta milanese che ha portato all'arresto di Fabio Rizzi, considerato il braccio destro di Roberto Maroni e l'autore della riforma sanitaria della regione Lombardia, si parla anche di lei, no? C'è questa intercettazione ambientale nella quale una persona riferisce di aver, come dire, sostanzialmente bonificato 10.000 euro alla sua fondazione, e poi parla, dice, insomma, Tosi ne hanno chiesti per la campagna elettorale 10 volte tanti, ossia 100.000 euro. Che cosa dice? Ah, dico quello che abbiamo già comunicato, ovvero sia che non ho mai né conosciuto né avuto rapporti con questi soggetti, e pertanto tutto quello che affermano sono millanterie, ma del resto i millantatori in giro ce ne sono tanti. E quindi quereleremo loro e chi accosta il mio nome a questioni poco trasparenti, visto che ho fatto una campagna elettorale totalmente finanziata con contributi privati, zero soldi di contributi pubblici ai partiti, abbiamo raccolto quasi 500.000 di euro, tutti tracciati con bonifico. Il resto sono tutte sciocchezze. Sì, in effetti i 10.000 che sono arrivati dall'imprenditrice che è al centro, meglio dall'impresa che è al centro di questa indagine, erano effettivamente tracciati, mi sembra di aver capito, Tosi, cioè sono regolarmente denunciati quei 10.000. Ma c'è una società cooperativa, mi pare che sia, che eroga servizi sociosanitari, che ha fatto questo contributo di 10.000 euro, assolutamente tracciati e comunicati pubblicamente, quindi per questo tutto trasparente, non sapevo neanche la proprietà, del resto c'è chi si occupa della raccolta dei fondi e chi fa attività politica, chi fa la campagna elettorale fa una cosa, chi raccoglie fondi è un'altra figura, sempre, sono ruoli completamente diversi. Perché qua appunto si parla di questi 100.000 euro in nero da convertire per la campagna elettorale di Tosi, poi si dice nel pezzo i termini sono saltati. Se mi pare una bufala solo a leggerla, francamente, anche per questo appunto facciamo querela, perché è incredibile solo a leggerla per come viene raccontata. Cioè, ma non ho capito, querelerete il quotidiano? Quereliamo chi ha proferito affermazioni che non hanno né capo né coda. La ringrazio, grazie a Flavio Tosi, sindaco di Verona. Le auguro buona giornata e saluto la senatrice del Partito Democratico, Laura Cantini. Buongiorno, benvenuta senatrice. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, perché insomma, ne ha parlato anche ampiamente il nostro Gianluca Nicoletti nella parte precedente in Melog, ovviamente dalle 12 alle 13, sta facendo molto discutere questa vicenda dell'obbligo di fedeltà. Che cosa è successo? È stato tolto dalla DDL Cirinnà, il disegno di legge sulle unioni civili, è stato tolto l'obbligo di fedeltà, che è compreso invece nella disciplina del codice civile che riguarda il matrimonio. Questo perché? Perché è una delle cose che il nuovo centrodestra ha chiesto per non accostare troppo questo nuovo istituto, appunto l'unione civile, al matrimonio. Lei ha preso la palla al balzo, mi sembra di aver capito, ha presentato un DDL per eliminare l'obbligo di fedeltà per il matrimonio. Esatto, esattamente così. Non è però uno scherzo, è una cosa seria, perché è per ribadire che in realtà in questo caso la norma fatta, quando la voteremo insomma con le norme delle unioni civili, assomiglia molto di più alla realtà del 2016 che non la vecchia norma del codice civile, che invece ha una sua provenienza assai arcaica e ancora ne mantiene alcune caratteristiche. Infatti non so se lei dice una cosa un po' vecchia, questa dell'obbligo molto, di fedeltà, no? L'obbligo di fedeltà sessuale, dobbiamo ricordarci, era connesso un tempo a quella norma del codice penale che puniva solo la donna adultera e non l'uomo. E poi successivamente, diciamo, ha avuto una sua grande validità, perché va detto questo, quando intanto i figli nati fuori, illegittimi o illegittimi, sì, nati fuori o dentro il matrimonio, riconosciuti o non riconosciuti, non avevano gli stessi diritti. Ma nel 2012 questa cosa è stata sanata, e nel 2013 con una legge che abbiamo fatto proprio noi in questa legislatura abbiamo addirittura modificato in tutte le norme qualunque parola che ponesse discriminazione tra figli, per cui sì, oggi questo lo ricordiamo, lo abbiamo raccontato. Senta, senatrice, però questo obbligo di fedeltà, che è compreso nel codice civile, ha ancora una sua forza? Ovviamente non è sanzionato, perché sarebbe ridicolo sanzionare una cosa di questo genere, cioè la violazione dell'obbligo di fedeltà, e però ha ancora una sua forza e una sua efficacia nel momento nel quale si va alla separazione o al divorzio, e questo è un punto rilevante, cioè l'eliminarla non creerebbe qualche problema da questo punto di vista? Ma se andiamo a guardare le ultime sentenze, che ora sto anche ricercando per citarvele, perché le ho qua, eccole qua. Se citiamo per esempio la sentenza della Corte di Cassazione del 2014, dice chiaramente che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale, o meglio, o ancora di più, ce ne sono altre pronunce della Corte Suprema che dice che affinché la violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio possa condurre il giudice ad addebitare la separazione, è necessario che la violazione sia riconducibile comunque alla crisi dell'Unione. Ma quello che voglio dire però, questa diciamo è la parte legislativa e formale, che in realtà il vero punto che a me interessava mettere in evidenza è che sì, porre l'obbligo alla fedeltà è un'ingerenza è un retaggio, appunto, è un elemento di ingerenza dello Stato dentro a quelli che sono invece gli equilibri nella coppia. Sì, questo sicuramente, senatrice Cantini, questo è molto chiaro, senatrice Cantini, però quello che le dicevo, il dubbio, per farla molto brutale, per far capire agli ascoltatori che in realtà hanno capito benissimo, è questo: se una coppia si rompe perché uno fa le corna all'altra o l'altra fa le corna all'uno, quello che si ritiene danneggiato, per così dire, da questa infedeltà coniugale vuole sentirsi dire, insomma, guarda che anche ai sensi del codice civile hai ragione tu, e quindi il tema è un po' questo. Sì, ma non è più nelle sentenze oramai è acclarato nelle ultime sentenze degli ultimi anni che non è un motivo sufficiente ad addebitare l'eventuale colpa o comunque responsabilità, perché naturalmente sono altri le cose che debbono e sono considerate nelle sentenze di separazione, e questo resterebbe, perché naturalmente quando il giudice va a definire nella sentenza di separazione e gli obblighi che derivano per l'uno o l'altro in base alla situazione economica, in base alle situazioni di vario genere, pesano tutte le componenti, e giustamente continueranno a pesare anche le componenti affettive e anche il tradimento, ma che sia lo Stato a dire che ha un dovere l'obbligo alla fedeltà, francamente a me sembra una cosa che è talmente superata nelle cose e nei fatti, anche perché insomma poi questo termine fedeltà, che qui intesa appunto per vecchio retaggio come sola fedeltà sessuale, a me per esempio interessa molto una fedeltà intesa come fiducia e rispetto dell'altro. Sì, però quella come lo vai a capire in sede giudiziaria, una roba di questo genere. Insomma, infatti, secondo me non deve essere materia che si decide in sede giudiziaria, sono altre le cose che pesano e debbono pesare in sede giudiziaria. Naturalmente quando si va a decidere di una separazione o di un divorzio, concorreranno tutti gli elementi, come probabilmente anche questo. Senta Cantini, che speranze ha questo DDL? Parliamoci chiaramente, appunto, insomma, perché no, mi scusi, perché la maggioranza è sempre quella che va a votare le unioni civili, non è che Alfano sparisce nel momento nel quale andate. Non so che speranza ha di essere approvato, ma io penso che uno dei motivi per cui è così difficile approvare leggi che sono vigenti in tutta Europa come quelle sull'unione civile, anche perché è vent'anni che se ne parla molto, sì, ma poi si praticano poco, per cui credo che il legislatore abbia il compito e l'obbligo di provarci e comunque di aprire un dibattito. Io penso che un dibattito questa cosa su questo, ti aiuti oggi a ragionare un po' di più su questo tale che si possano fare più facilità anche passi avanti e avere meno contrapposizioni, perché solo in Italia si hanno contrapposizioni di questo tipo insomma. Comunque la ringrazio, grazie alla senatrice Cantini per essere stata con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, poi nella seconda parte della trasmissione torneremo tra l'altro a parlare di moda, è la settimana della moda milanese, ve lo ricordo, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di quello che succede in Italia e nel mondo. Alfano sulle unioni civili, questi i nostri titoli. Abbiamo impedito un'operazione contro natura, dice, proteste dal Partito Democratico, resta alta la questione, la discussione sull'obbligo di fedeltà. La Grecia sui migranti, non diventeremo un magazzino di anime, lo dice il vice ministro all'immigrazione. Le iniziative unilaterali sono pericolose, dice intanto invece il ministro degli esteri italiano Gentiloni, è in corso un vertice a Bruxelles. I vertici della Lombardia sarebbero stati informati delle intercettazioni nelle inchieste sulla sanità. L'ipotesi spunta dalle carte dell'indagine che ha portato all'arresto del braccio destro di Maroni. Le informazioni sarebbero state passate direttamente dai servizi. Lo scontro sull'area ex Expo, la senatrice Cattaneo attacca, è uno spot che svilisce la ricerca, l'Istituto Italiano di Tecnologia si difende dalle accuse. Le due squadre di Milano verso la cessione, Berlusconi dice se fallisce la trattativa con B sono pronti altri acquirenti, l'Inter smentisce che Toir voglia vendere e non collocare solamente il 30%. Alla borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Ci sono un paio di aggiornamenti innanzitutto che vi voglio dare. Un aggiornamento è di cronaca ed è una brutta vicenda, è doloroso. Una bambina di 4 anni è morta ieri nella tarda serata a Castelfranco Emilia, nel Modenese, è stata colpita in testa da una lastra di marmo del caminetto di casa. Dalle prime ricostruzioni sembra che la piccola stesse giocando con il fratello di 8 anni e si sia appunto aggrappata alla mensola del camino che poi l'ha travolta. E l'altra arriva dalla Siria, sono gli aggiornamenti che giungono dalle Nazioni Unite, nella fattispecie da Jan Egeland, che è il consigliere per le questioni umanitarie dell'inviato speciale dell'ONU Staffan de Mistura. Sono aggiornamenti che parlano ancora dei civili bloccati in aree sotto assedio e non ancora raggiunti da convogli umanitari. Ebbene, questo numero al momento è di 370.000. Finora soltanto 110.000 persone sono state raggiunte dagli aiuti in 6 località delle 17 appunto che rimangono sotto assedio. Questo il quadro che arriva dalla Siria. Abbiamo parlato poco fa di mercati, ci occupiamo adesso di un'operazione molto importante avvenuta in Giappone, importante anche perché significativa, riguarda un marchio noto, la Sharp, e riguarda anche un fatto storico per il Giappone stesso. Se l'Abenomics ha sempre più difficoltà a livello macroeconomico ed è accusata di non fare le riforme, a livello micro si può dire che sì, il Giappone sta cambiando ed è davvero più aperto agli investimenti stranieri. Per la prima volta nella storia, una grande società tecnologica giapponese passa in mani straniere e viene respinta una controversa soluzione nazionale già pronta. La Sharp ha respinto la proposta di salvataggio di un fondo parapubblico e ha accettato l'offerta della taiwanese Foxconn, che potrà così ampliare il suo ruolo primario come fornitore della Apple. Foxconn investirà quasi 6 miliardi di dollari per acquisire circa i 2/3 della Sharp e rilanciarla, ad esempio, nel settore dei pannelli di tecnologia OLED. Tra l'altro, stanno crescendo gli investimenti diretti italiani in Giappone. L'anno scorso l'Italia è passata dalla 29esima alla 9ª posizione, con 323 miliardi di yen di investimenti diretti. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. E torniamo adesso alla settimana della moda. Dopo la premiere di ieri, in cui per la prima volta un presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha inaugurato le passerelle, si è aperta ufficialmente la Milano Fashion Week, la settimana della moda milanese dedicata alle collezioni autunno-inverno 2016-2017, che proseguirà fino al prossimo 29 febbraio. Oltre 80 sfilate in calendario, con più di 500 modelle ingaggiate, per lo più americane, francesi, dell'est Europa, olandesi e orientali, poche invece le modelle italiane. Ad aprire la giornata di oggi è stato Max Mara, seguito da Fendi, ma il grande appuntamento è quello con Prada e poi con Moschino. E la novità che porta in scena Prada è che due dei suoi modelli di borse presentate oggi in anteprima durante la sfilata saranno in vendita già a partire da domani nei negozi Prada di Milano, Londra e New York. Una novità in linea con la nuova filosofia partita da New York e da Londra e sempre più seguita da vari marchi del See Now, Buy Now, ovvero vedi ora e compri subito. Questo consente soprattutto di evitare che qualcuno si metta a copiare i capi e le metta sul mercato dopo poche settimane a prezzi stracciati. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, vi abbiamo parlato del calcio per quanto riguarda le questioni societarie, per quanto riguarda invece la pura parte di gioco e quindi di campo, ecco il nostro servizio. La Roma ha un passo dall'eliminazione con Real Madrid, la Juventus che dovrà fare l'impresa in Baviera contro il Bayern. Basti ricordare il duro cammino delle nostre squadre in Champions per capire quanto non sia banale il giovedì che aspetta il nostro calcio in Europa League, con Napoli, Fiorentina e Lazio che cercano il via libera per gli ottavi. Difficile il compito dei partenopei che al San Paolo devono rimontare l'1-0 subito in Spagna dal Villarreal. Il tecnico azzurro Maurizio Sarri. Il Villarreal quest'anno è una squadra veramente di grandissimo livello. Cerchiamo di mettere a posto la situazione sapendoci la tanta pazienza che sarà difficile. e cuore e testa serviranno pure alla Fiorentina, che la qualificazione deve conquistarsela a Londra sul campo di un Tottenham, sì privo del suo bomber Kane, ma forte dell'1-1 di Firenze. Piccolo vantaggio, l'1-1 ottenuto a Istanbul, invece per la Lazio, ma il Galatasaray resta un brutto cliente. Ieri infine, nell'andata degli ultimi due ottavi di Champions, il Manchester City è passato facile a Kiev piegando la Dinamo per 3-1, 0-0 invece in Olanda tra PSV Eindhoven e Atletico Madrid. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un ultimo aggiornamento prima di andare a sentire, come sempre, il traffico e poi Mario Platero, ed è un aggiornamento che arriva dalla Russia. Fino a 90 persone potrebbero essere rimaste intrappolate sottoterra a causa di un crollo nella miniera di carbone Severnaya. Siamo vicino alla città di Vorkuta, nell'Artico russo, lo riporta l'agenzia Itartas citando il Dipartimento regionale del Ministero delle Emergenze. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime, è in corso un'evacuazione, ma appunto ci potrebbero essere 90 persone intrappolate. Ovviamente vedremo come andrà a finire questa vicenda. Noi adesso, come sempre a quest'ora, ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi sentiremo America 24 con Mario Platero e ci risentiamo alla fine per i saluti.